22.05, ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Comincia anche oggi, anche questa domenica, una puntata di interferenze. Oggi questa domenica di pioggia, domenica post corteo, che saluta una Torino tutt'altro che primaverile. La redazione di interferenze quasi al completo qui negli studi di Via Cecchi 21 barra A, e quindi insomma siamo in tre dietro i microfoni. Vi salutiamo calorosamente, cominciamo innanzitutto a salutarvi e darvi contatti. Un saluto anche da me in questa domenica piovosa, come diceva Ilaria. Io sono Daniela e quest'oggi vado a tenervi compagnia insieme anche a Camilla, quindi come diceva Ilaria oggi ci siamo insomma quasi tutte, abbondanza di redattrici di interferenze. Andiamo subito a darvi contatti per interagire con noi: 011 24 95 669 il numero di telefono fisso, 346 66 73 263 il numero di cellulare degli studi di Radio Blackout. Quest'oggi vi proponiamo una selezione che passa dagli Stati Uniti, dagli States. Questo è un duo di ragazze appena uscito, insomma il loro album è ancora in produzione, in realtà fuori ci sono solo degli EP, ma già fanno dei tour, sono state a Milano qualche mese fa. Loro si chiamano Deep Valley, da notare scritto senza la E, Valley, quindi non come valle, di cui ancora però devo dirvi che non conosco il perché di questo nome, ma intanto ve ne do un assaggio perché sicuramente valgono la pena di essere ascoltate. Thank you. questo pezzo delle Deep Valley. Come dicevo, vi darò altri assaggi del loro nuovo e primissimo EP più avanti nella puntata, poi ci delizieremo le orecchie anche con un gruppo storico sempre dagli States, yeah. E niente, partiamo subito con insomma, la parte informativa di questa puntata di Interferenze. Partiamo da una notizia che arriva da questa insomma, dalla Tunisia. Sì, infatti è da 2 giorni che non ci sono più notizie di una ragazza di nome Amina Tyler, una studentessa tunisina di 19 anni che appunto aveva posato in topless con un'altra ragazza sulla sua pagina Facebook per lanciare le femmine tunisine. La scritta sul corpo di questa ragazza recitava: il mio corpo mi appartiene, essa rappresenta l'onore di nessuno. E appunto questa ragazza è scomparsa perché era stata minacciata, tra l'altro appena questa foto era stata pubblicata, aveva iniziato a girare su Facebook, era stata minacciata di lapidazione e pena di morte da un imam. E pena di morte e lapidazione che non sono previste per il codice penale tunisino, quindi in realtà quello che poi rischiava effettivamente questa ragazza era da 2 anni a 6 anni di reclusione in carcere. Appunto le ultime notizie sono che questa ragazza è scomparsa e qua appunto leggiamo da alcuni articoli che le altre attiviste femme in Tunisia hanno cercato di contattare questa ragazza Mina senza successo. Il suo telefono è spento e quindi appunto qualcuno dice di averla vista condotta da suo padre e suo fratello come se stesse per essere internata, quindi appunto non si capisce bene come se questa ragazza sia sparita di sua volontà, appunto per evitare di venire incarcerata dopo questa sua foto, o se appunto sia stata invece portata via, rapita appunto dalla famiglia o da non si sa bene chi. E insomma, il gruppo delle Femmes si è già distinto in vari posti del mondo, in particolare dall'Europa. Originario questo fenomeno proveniente dall'Ucraina. Fenomeno anche particolarmente controverso, insomma, non vogliamo dimenticare il fatto che esistono numerose questioni riguardanti l'aspetto e la modalità con cui le femmine si presentano al pubblico e attirano l'attenzione mediatica. Nel leggervi questa notizia non vogliamo entrare nel merito del perché e per come questo gruppo di donne, in particolare quelle più famose, le ragazze ucraine, hanno scelto di manifestare, ma semplicemente vogliamo dare conto del fatto che una ragazza in questo momento si trova non reperibile, insomma è scomparsa Mina, e quindi quello che ci premeva fare, dare informazione, era appunto questo, quindi la vicenda che riguarda lei e la questione della presenza di gruppi femministi in generale in Tunisia. Ricordiamo che comunque all'interno dei social network, insomma per quello che c'è possibile fare a distanza, gli appelli e le segnalazioni di questa vicenda si stanno moltiplicando. Questo vuol dire che comunque l'attenzione è stata richiamata sulla vicenda, e la scomparsa di questa ragazza speriamo non rimanga nel silenzio. Vedremo se nelle prossime settimane avremo delle buone notizie da darvi rispetto a eventuali, insomma, contatti che si sono presi con lei, che magari ha preso un po' le distanze da insomma zone pericolose per lei, e magari è anche riuscita a scappare da chi la minacciava. Insomma, speriamo di potervi dare buone notizie. Adesso continuiamo con una pausa musicale. Come vi annunciavo prima, questi sono gli Yeah, gruppo storico statunitense che da poco hanno fatto uscire un singolo che preannuncia un nuovo album, ma questa canzone qua invece è di uno dei loro album storici, album del 2006 se non erro. Questo è Fashion Fight Pause. Thank you. vi facciamo ascoltare ancora un pezzo, sempre Yeah, questa è Day to the Night, tratto dal loro album un loro album del 2003. Buon ascolto. Un pezzo bello tosto per risvegliarvi in questa domenica. L'album da cui è tratto è Fever to Tell. Su Radio Blackout, questa Interferenze. Adesso volevamo presentarvi un contributo registrato da Radio Onda Rossa, dalla trasmissione Profondo Rosa, un contributo che parla di corpi e frontiere e nello specifico del CIE di Ponte Galeria. In questa puntata i redattori fanno alcune considerazioni sul concetto di confine e di espulsione, chiaramente sempre a questo collegato, e c'è una ospite che è una compagna della cooperativa Be Free, che gestisce uno sportello psicosociale in cui si occupano di donne vittime di tratta all'interno del CIE di Ponte Galeria. Insomma, sicuramente un'esperienza molto forte e sicuramente ambigua e controversa, però secondo noi insomma è utile ad aprire alcuni spazi di riflessione intorno a queste tematiche, che altrimenti troppo spesso diciamo rischiano di passare del tutto sotto silenzio e insomma di fare sì che poi non se ne parli minimamente. Quindi vi presentiamo questo contributo audio, che non potremo mandare nella sua interezza perché è molto lungo, però insomma poi per chi fosse interessato è possibile scaricarlo interamente dal sito di Radio Onda Rossa. Ve lo facciamo ascoltare subito. Che uno degli obiettivi di Frontex, l'agenzia che si occupa di difendere diciamo le frontiere europee, dice che Frontex serve per garantire la libertà degli europei. E questo è una dichiarazione lunga, sì. Sì, è agghiacciante, direi. E comunque questi muri non rimangono soltanto, come dire, sul confine turco, muri di mare sulle nostre coste, ma poi vengono portati dentro le nostre città e dentro le città delle alte sponde del Mediterraneo, perché i CIE, i centri di detenzione che hanno vari nomi e sono costruiti in vari modi, i vari checkpoint, li troviamo dentro le nostre città, li troviamo nei paesi del Maghreb, li troviamo in Palestina, magari destinati tante altre persone, le troviamo anche di nuovo nelle nostre città con dentro i Rom e le Rom, le troviamo in varie conformazioni e con varie destinazioni, ma sono, come dire, costitutivi del modello di società che ci viene proposto. Eh sì, e quest'oggi così abbiamo anche un ospite, intanto ti salutiamo, benvenuta. Ciao a tutte e a tutti. Ospite forse è una parola grossa, che insomma, come dire, adesso forse un po' di meno, però qualche tempo fa ti sentiamo parecchio da questi microfoni. Per diciamo un po' continuare questi discorsi, il motivo per cui come dire, facciamo questa trasmissione in tre stasera è proprio perché diciamo c'è uno spunto di fondo che è uno scritto, un articolo che è apparso su una raccolta che è chiamata Libeccio d'Oltremare, insomma, che ci ha particolarmente interessato perché comunque narra un po' dall'interno alcune delle vicende riguardanti le detenute, in particolare di Ponte Galeria. Te fai parte praticamente di un'associazione, di una cooperativa che si occupa di lavorare in qualche modo all'interno del CIE di Ponte Galeria. Magari se ci spieghi pure bene che tipo di situazione ti trovi ad affrontare dal punto di vista lavorativo e anche come dire, come è venuto fuori questo articolo che un po' racconta alcune delle vicende riguardanti appunto il CIE di Ponte Galeria. Sì, con la mia cooperativa che si chiama Bifree abbiamo uno sportello dentro al CIE di Ponte Galeria dove ci occupiamo delle donne vittime di tratta e diciamo che questa collaborazione con Ambra Pirri, che poi è la curatrice del libro Libeccio d'Oltremare, è nata proprio da alcuni confronti che abbiamo avuto con lei, e insomma nel 2011 è nato questo libro che raccoglie un po' di testimonianze e di contributi da parte di persone diverse che appunto hanno tutte insieme cercato di creare un panorama rispetto a quello che stava succedendo appunto nel 2011 con la primavera araba, e Ambra Pirri ci ha chiesto appunto di occuparci nello specifico di un pezzo, di un articolo rispetto al nostro lavoro. Noi avevamo già avuto modo di scrivere dei report, dei dossier sul nostro lavoro, perché appunto parlare dei CIE è sempre molto difficile e sono poche le voci, una di queste appunto è Radio Onda Rossa, che cercano di rompere appunto questo muro di silenzio che c'è intorno al fenomeno dei centri di identificazione e di espulsione. Ed è stato per noi molto importante partecipare a questo libro, perché facendo un lavoro sul campo ogni tanto è bello anche fermarsi a riflettere, no? A mettere su carta quello che si vive quotidianamente e che molto spesso è dettato anche dall'emergenza, dalle storie delle donne, dalle vite delle donne che incontriamo. Quindi diciamo, metterci a tavolino, siamo state insomma in quattro, tutte dell'equipe di Ponte Galeria, e scrivere è stato per noi sia terapeutico rispetto ad un senso di frustrazione, no, che abbiamo anche dovendoci confrontare con un luogo del genere, e sia proprio ha permesso di inserire il nostro piccolo lavoro in un sistema un pochino più ampio, anche teorico, no, in cui ci siamo iniziati a destreggiare. Senti, puoi raccontare proprio in cosa consiste quello che fate quotidianamente dentro il CIE Ponte Galeria? Una volta a settimana, non quotidianamente, già basta. Noi all'interno del CIE di Ponte Galeria abbiamo questo sportello che è volto all'emersione delle donne vittime di sfruttamento. Cioè, il nostro compito è quello di ascoltare le storie delle donne e di capire se dalle loro storie appunto ci sono degli indicatori che possono farci capire rispetto alla loro storia eventuale di sfruttamento e di tratta degli esseri umani, e diciamo da queste storie cerchiamo di instaurare prima di tutto un rapporto di fiducia, che è molto difficile in un contesto come quello, perché appunto è un contesto molto ostile, e da questo rapporto di fiducia nasce appunto la possibilità per le donne di aprirsi e di raccontare le loro vere storie, e diciamo che per le donne vittime di tratta esistono degli strumenti legislativi che possono aiutarle a ricominciare una nuova vita. Quindi il nostro compito è quello di cercare di farla, di fare accedere queste donne ai programmi di protezione sociale che sono previsti dalla legge, soprattutto dall'articolo 18 del testo della legge turco-napolitano, che è la stessa, ahimè, che ha in un altro punto, insomma, istituito però i centri di permanenza temporanea, che si chiamavano, insomma, prima CPT e adesso appunto con le nuove leggi sono chiamati centri di identificazione e di espulsione. Sì, perché appunto si tratta di un percorso ormai di anni, questo, insomma, della reclusione delle persone che arrivano qui con percorsi di migrazione, no? Anche se, come dire, il reato di clandestinità è stato inserito nel pacchetto di sicurezza, quindi si parla del 2009, però appunto i sci hanno preso questo nome contestualmente, sì, poco dopo, insomma, ma prima c'erano i CPT, anche se non c'era il reato di clandestinità, no? E quindi comunque le persone venivano rinchiuse. Sì, diciamo che le politiche migratorie si sono sempre più ristrette e sono sempre più peggiorate con il passare degli anni, e questo, diciamo, a livello sia pratico ma anche a livello simbolico è molto devastante, no? per le persone che con tanta fatica e anche a rischio della propria vita cercano di raggiungere l'Europa. Solamente adesso si sta cominciando a capire che cosa sono veramente i centri di identificazione, tanto che fino a poco tempo fa i giornalisti, per esempio, li chiamavano centri di accoglienza. E quindi solamente in tempi molto recenti invece si sta dando il nome giusto alle parole, no? Non si deve parlare di accoglienza ma di detenzione amministrativa. Ma certo, è strano chiamare centro d'accoglienza un posto, vuol dire che sul treno per Fiumicino non ci sono mai stati, perché, insomma, vedendolo da fuori il CIE di Monte Galeria non sembra accogliente, insomma, ci sono muri, fili spinati, no? Sì, ma questo fa parte appunto della mistificazione anche di cui siamo stati vittime, no? Con i media mainstreaming, nel senso che, per esempio, anche questa leggenda per cui la maggior parte, l'invasione degli immigrati e delle immigrate viene da Lampedusa, anche questa è una notizia falsa, cioè, perché appunto la maggior parte invece degli ingressi avvengono tramite un visto turistico, e si parla quindi di persone che poi, arrivati in Italia con un aereo, con un visto turistico, poi rimangono anche dopo che questo visto turistico è scaduto. Quindi diciamo che è molto importante dare il giusto significato alle parole, ed è anche questo, forse lo possiamo collegare anche alla difficoltà che hanno avuto i giornalisti anche ad entrare, no, nei centri di identificazione e di espulsione. Maroni aveva fatto quel decreto per cui non era possibile, per 2 anni mi sembra che non è stato possibile proprio accedere per i giornalisti in un centro di identificazione e di espulsione, e questo, diciamo, ha creato quel muro del silenzio di cui parlavate, no, anche nelle scorse trasmissioni. Cioè, non si sa che cosa sono i centri di identificazione e di espulsione, sono dei luoghi invece che stanno proprio, appunto, che rappresentano la frontiera, come dicevi tu, dentro le nostre città, anche se i luoghi in cui le persone, no, in cui i cittadini italiani non fanno molta attenzione, perché sono molto spesso luoghi non facilmente raggiungibili, insomma anche il contorno, il contesto in cui questi luoghi vengono creati è significativo, no? E questo per esempio non avviene solamente con i CIE, che sono i centri di identificazione e di espulsione, ma avviene anche con i CARA, che sono i centri d'accoglienza per i richiedenti asilo. Tutto quanto secondo me si basa sul vedere la persona come altro da noi, no? E quindi un'alterità che fa paura e che ha necessità di venire imbrigliata, e la cui mobilità ha necessità di venire imbrigliata rispetto appunto alle politiche di difesa della libertà dei cittadini europei, come appunto dice Frontex. Senti, così anche per dare un pochino, una piccola dose di dati che comunque ci permette un po' anche di contestualizzare determinate dinamiche. Noi l'altra volta ci siamo un po' soffermati su la questione, no, dei soggetti che sono cittadini e cittadine, le faceva l'esempio adesso l'esempio, no, dei cittadini europei che sono soggetti che hanno dei diritti, dei doveri, vanno a votare eccetera eccetera, e facciamo l'altra volta invece la differenza con chi viene ed è una persona senza documenti, che automaticamente si trasforma praticamente in qualche cosa da un lato di ingovernabile, ovvero sul quale non esistono più proprio politiche di governamentalità, dall'altra parte quindi diventa in qualche modo un soggetto che non esiste, cioè una persona, una non persona, un non cittadino, una non cittadina. Di fatto, ed è la cosa allucinante, leggendo anche l'articolo che avete scritto, riportava del dato che si stima che ci siano nel mondo 12 milioni di persone che sono trafficate. E che in Italia molto spesso, in Italia come penso dovunque ci siano dei centri di identificazione e espulsione o il corrispettivo nei vari paesi, anziché almeno in Italia, facevi prima dell'esempio, esistono dei percorsi in qualche modo che tentano, no, di tirar fuori queste persone dalla questione tratta, c'è appunto l'articolo 18 di questa legge che permette in qualche modo, no, la possibilità a chi emerge, chi racconta la sua storia di uscire fuori da questa spirale, però di fatto queste persone invece finiscono nuovamente dentro un centro di identificazione e espulsione, spesso per tantissimo tempo, spesso neanche sapendo bene come ci sono finite e perché. Il motivo l'hai detto tu, no? Perché si tratta di luoghi che non sono luoghi, si tratta di luoghi separati dallo spazio normale di vita quotidiana di tutti noi, per cui le persone spariscono, le storie delle persone, le storie individuali delle persone spariscono e si ottiene quello che invece è un processo di massificazione, no? L'unico comune denominatore delle persone che stanno recluse dentro Ponte Galeria è il fatto di non avere i documenti. Poi, se questi documenti non li hai mai avuti perché sei una vittima di tratta, o non li hai mai avuti perché hai subito violenza domestica da parte del tuo partner, che per esempio non ha mai fatto un ricongiungimento familiare, non ti ha mai regolarizzata proprio per tenerti imbrigliata e dipendente rispetto a lui, questo viene in secondo piano. Quindi diciamo che è tutta una volontà politica, no? Nel momento in cui il perseguimento della clandestinità e dell'irregolarità diviene prioritario rispetto alla lotta contro il traffico degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, allora è capitato per esempio a noi anche di incontrare delle donne dentro Ponte Galeria che si erano rivolte alle forze. Perfetto, e questo insomma è il contributo che ci tenevamo a farvi ascoltare, perché secondo noi presenta davvero numerosi spunti di riflessione e sarebbe interessante ascoltarlo tutto, perché davvero adesso appunto proseguiva facendo questo discorso del fatto che appunto si dà la priorità al fatto che queste persone vivano una condizione di clandestinità e non alle storie, ai portati di violenza che li hanno spinti a ad emigrare nei vari paesi, e questo chiaramente li tiene sempre in una condizione di estrema ricattabilità. E, insomma, per chi fosse interessato, appunto, rimandiamo al sito di Radio Onda Rossa. Diamo ancora spazio a un po' di musica prima di fare una considerazione sempre a proposito di frontiere, di ricattabilità e di soggetti migranti, e ancora Deep Valley, e ancora dal loro nuovissimo EP, questa Ain't Fair. Con una dedica a Valentine, che sappiamo che ci sta ascoltando. Partiamo quindi con una notizia che riguarda sempre questione di corpi migranti, in particolare di donne migranti. E infatti andiamo a leggere, appunto, che sulle cronache di questa settimana, insomma, del poliziotto che è stato condannato in rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi, ritenuto appunto colpevole di concussione sessuale. E tra l'altro, appunto, questo non era un semplice poliziotto, ma un dirigente dell'ufficio immigrazione che usava, diciamo, in maniera davvero subdola e schifosa il suo potere, perché di fatto si approfittava del fatto che le donne migranti fossero in condizione di estrema ricattabilità per quello che riguarda i rinnovi del permesso di soggiorno o la possibilità di ottenerle, e quindi lui, in cambio di favori sessuali, si proponeva, insomma, di dare loro una mano o chiudere un occhio sulle vicende che non erano esattamente regolari. E questo chiaramente fa capire come davvero sia importante leggere tutte queste vicende davvero considerando l'intreccio tra genere, classe e razza, perché davvero questi soggetti vivono uno sfruttamento sempre maggiore, che è dato, appunto, sia dalla condizione femminile molte volte, ma sia soprattutto, appunto, un doppio sfruttamento dato anche dalla condizione di essere donna migrante e povera in un paese straniero, quindi insomma è sempre importante saperle leggere come, come dinamiche di potere e di sfruttamento e non sicuramente come un episodio di cronaca, una mela marcia che agisce all'interno di un contesto che normalmente invece funziona diversamente, perché sappiamo che non è così e numerosi ne sono gli esempi. E infatti ricorderemo tutti quanti, tutte quante, la vicenda di Joy del 2010, una ragazza chiusa nel CIE di Via Corelli di Milano che aveva denunciato un ispettore per tentato stupro, ma il poliziotto in primo grado è stato assolto con formula piena dall'accusa di violenza sessuale aggravata. E, gli episodi chiaramente al di là di, della vicenda di Joy che è stata particolarmente ripresa da insomma numerosi siti di movimento giustamente, comunque gli episodi si moltiplicano, ricordiamo altri momenti, insomma tre carabinieri in servizio a Milano e provincia sono stati condannati per stupro, violenza e concussione nel dicembre scorso e la condanna riguarda ben 13 casi. Un'altra vicenda, un militare nel 2011 sempre condannato per 7 presunti casi di violenza a carico di ragazze, cioè nei confronti di ragazze migranti, tre carabinieri e un vigile urbano che insomma denunciati da una ragazza che proveniva dalla Polonia per una un inseguimento con successiva violenza la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2011 e insomma questi sono solo alcuni dei, degli episodi di cronaca che riportiamo, ma insomma chiaramente sono solo quelli che vengono fuori dalle pagine dei giornali e riportano una realtà parziale, ma insomma possiamo ben immaginare quanto possa essere facile per un uomo in divisa approfittare di un potere su una condizione di estrema ricattabilità e di vita completamente precaria e insomma noi accogliamo la notizia appunto della condanna senza fare giubilo per insomma giustizialismi che non ci appartengono, ma vogliamo ricordare appunto le donne che vivono sulla propria pelle la condizione, non stiamo sicuramente facendo una festa per un processo e non pensiamo neanche che attraverso la giustizia e i processi arrivi insomma quella che è un riscatto per dei soggetti migranti che si trovano in un paese a dover affrontare questo tipo di situazioni. E chiuderei qui questo breve commento, darei spazio alla musica anche per dare un pochino di spazio alla vostra domenica pomeriggio. Un saluto ancora dagli studi di Via Cecchi 21 Barra A, dove continua a piovere imperterrito, questo tempo completamente inclemente. E, sempre una canzone dalle Deep Valley, questa è Gonna Make My Own Money. I'm gonna make it. continuiamo con un po' di musica. Questi sono sempre le yeah con Pin. Buon ascolto. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Interferenze. Utilizziamo questi ultimi minuti per presentarvi un festival che si terrà a Roma, in programma dal 4 al 7 aprile, un festival queer che si chiama Da Mieli a Queer, è appunto basato un po' sulla figura di Mario Mieli, un festival che parte appunto dalla costruzione di una storia del movimento queer, una costruzione attraverso un lavoro collettivo che poi appunto si dirami attraverso momenti di formazione anche appunto attraverso pratiche teatrali, prendendo spunto da questa figura di Mieli, dai suoi testi, dalla biografia, e continuando poi con un altro elemento, quello della costruzione politica. Quindi appunto, se vi trovate a Roma fra due settimane, subito dopo Pasqua, dal 4 al 7 aprile, vi consigliamo vivamente di andare appunto a questo festival, che è un po' itinerante, infatti si terrà in diverse zone e luoghi di Roma, tra i quali appunto Teatro Valle, l'Università La Sapienza e così via. Comunque appunto vi rimandiamo direttamente al sito www.damieliaqueer.com, dove trovate tutte le informazioni. L'idea di presentarvelo oggi, insomma, è sicuramente in continuità con il discorso sui corpi, con il discorso sui confini, che in questo caso ci sembra che una parte molto attiva del movimento cerchi di respingere, cerchi di mettere in discussione, di oltrepassarli, di mischiarli e quant'altro. Quindi questo è il motivo per cui ci sembrava quanto mai pregnante e azzeccato presentarvelo in questo momento. Sicuramente nella prossima settimana cercheremo un approfondimento delle dirette con le realtà che stanno prendendo parte all'organizzazione di questo festival, che ha davvero un programma ricchissimo, per cui davvero, per chi fosse interessato, la cosa migliore è sicuramente consultare il sito. E vi invitiamo anche insomma a dare un'occhiata a quelli che sono i soggetti che stanno preparando questo festival, questi quattro giorni, perché sono sicuramente molto interessanti, oltre ad essere alcuni dei soggetti che in Italia portano avanti un discorso politico queer LGBT in maniera più radicale e sicuramente più interessante dal nostro punto di vista. Ancora una pausa musicale, poi vi ricorderemo brevemente gli appuntamenti per questa sera, se vorrete sfidare il brutto tempo, e poi ci salutiamo qui dai microfoni di Interferenze e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Andiamo quindi a farvi un attimo un'agenda per questa sera, se volete sfidare il maltempo e uscire dalla vostra tana della domenica pomeriggio. Questa sera, come al solito, come ogni domenica, Cinepizza al Barocchio Squat, in strada del Barocchio 27 a Grugliasco. Questa sera si proietta Django, e ricordiamo che il Cinepizza è bella vita, quindi insomma portate quello che volete mangiare, quello che volete mangiare e bere per condividerlo con quelli che ci saranno. E poi altro appuntamento segnato qui in agenda di Radio Blackout, giornata e serata nel quartiere, iniziava questo pomeriggio dalle 4 in Corso Verona, angolo Corso Reggio Parco, con saltimbanchi e quant'altro, parata, saluto alle occupazioni del quartiere, gran finale con fuoco, cabaret e tutto il resto. Alla Miccia, via Foggia 28, e è segnato anche come orario 8:30, quindi vuol dire che proseguirà stasera. Per concludere l'ultimo appuntamento segnato qua nell'agenda della radio, ore 21, vicolo Benevello 4 alla Verdi Lab, proiezione del documentario Noi siamo un popolo di resistenti, girato durante i bombardamenti di novembre 2012 a Gaza, proiezione con a seguire un dibattito. Qui dai microfoni di Interferenza vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima, vi invitiamo a restare incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout, che comincia Animal Radio.